e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te, un raggio di sole per te. Ci siamo quasi, Deborah. Il sole è lì, pronto, che ci corteggia, ci fa l'occhiolino, la tentazione è forte. Sono settimane, io mesi. Sì, direi che vorrei andare a prendere un po' di sole. Stiamo aspettando trepidanti da un bel po'. Comunque è prevista per la sua presenza per questo weekend in tutto lo stivale. Secondo te c'è da fidarsi? Io vado a fare un check-up ad Ancona, lo sai, quindi vado a vedere un po' qual è la situazione là. Se le previsioni sono veritiere. Attenzione, perché molti si sono scottati, è un dettaglio che non possiamo certo trascurare, ma è anche vero che capita sempre così in ogni tipo di relazione. Quando non si usa la testa e ci si lascia trasportare dalla passione, in questo caso dalla voglia di prendere un po' di colore, è facile farne le spese. Rischio che però noi oggi non vogliamo correre e che possiamo evitare giocando un po' d'anticipo, usando la testa. Cosa farete questo weekend? Vi farete baciare 800 24 00 24. E ci sono le scottature alla pelle dovute al sole, quelle al conto in banca dovute alla crisi, ma gli italiani al mare, se possibile, non rinunciano. E più o meno vale sempre il ritornello della canzone Stessa spiaggia, stesso mare. Molte famiglie non sono particolarmente interessate ad andare in cerca di chissà quale meta per le vacanze estive. Tornano sempre ogni anno nella stessa località. Per fortuna il nostro paese ci offre davvero quanto di più bello, e allora raccontateci, anche se al di là di questo weekend di sole state già progettando una vacanza o almeno qualche giorno al mare per l'estate 2014, quanto pagherete o avete intenzione di pagare per l'ombrellone? 800 24 00 24, mano alla cornetta. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Oggi consigli pratici per ogni tipo di pelle, per ogni problema, per visi pallidissimi, grigi, olivastri, per chi ha le macchie, per chi ha le rughe, ma anche per chi saggiamente le vuole evitare. Chiamateci se il sole lascia il segno sulle labbra o fa fiorire la vostra pelle, o se la sua passione vi fa scottare. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giuseppe Monfreco, l'ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei. Professore, abbiamo un appuntamento con il sole. La tentazione di abbandonarci a lui è forte. Che dice, cediamo? Ma direi che con opportune attenzioni e opportuni distinguo possiamo anche consentirci, come dice lei, di cedere, perché noi parliamo sempre di danni provocati dal sole, che indubbiamente ci sono, se abbiamo comportamenti però che sono fuori misura. Però il sole, quello che non si sa, è che apporta anche dei benefici, sappiamo tutti della produzione di vitamina D, ma quello che non si sa sempre è che a valle della produzione di vitamina D c'è la produzione di quelli che noi chiamiamo peptidi antimicrobici. Il nome dice tutto, sono delle sostanze che servono ad attivare, che si attivano quando la nostra pelle ha un insulto rapido e quindi c'è bisogno di una risposta immediata. Sì. Quindi il sole influenza il sistema immunitario in qualche maniera, però attenzione, c'è una diversità di risposta tra gli uomini e le donne, questo non tutti quanti lo sanno. Per esempio voi signore avete minore possibilità di sviluppare tumori epiteliali indotti dal sole, noi uomini un po' di più, e questo sa perché? Perché voi donne resistete meglio alla soppressione del sistema immunitario indotto proprio dal sole, quindi è un vantaggio. Quindi siamo in qualche modo più protette? Sì, su questo non c'è dubbio, almeno in questo senso. Almeno in questo. Iniziano già a arrivare i messaggi al 349-238-6666, ricordiamo il nostro numero verde, e come sempre potete anche seguirci su Facebook e su Twitter. Professore, quindi lei ha già anticipato uno dei vantaggi dell'esposizione al sole, che negli anni ha avuto sempre una cattiva stampa, quindi rinforza un po' il nostro sistema immunitario, ci permette così di produrre la vitamina D. Quali altri vantaggi possiamo ottenere da un'esposizione, direi, ben protetta, adeguata al sole? Ma vede, il sole, per esempio, per noi dermatologi funziona come un farmaco, almeno in alcune malattie. proprio per quella sua azione sul sistema immunitario. Lo va a modulare, in alcuni casi appunto rinforza il sistema innato, in altri casi invece modifica quella che è la risposta un po' che noi chiamiamo ritardata, quindi le cellule che servono a difendersi vengono modulate. A tutti sappiamo per esempio dell'effetto benefico su malattie quali la psoriasi, in alcuni casi di dermatite atopica. Anche per l'acne, ma qui bisogna fare un attimo una distinzione, nella luce solare non c'è solo ultravioletto, c'è anche quella quota che noi chiamiamo luce visibile, che ha un effetto antinfiammatorio, ecco, sull'acne non è l'ultravioletto, quindi le lampade per l'acne non servono, ma è la luce visibile del sole, quindi il sole può avere un effetto benefico. Quindi ai nostri ascoltatori chiediamo di raccontarci che tipo di pelle hanno, se vogliono esporsi al sole, se andranno al mare, in montagna perché anche l'ambiente cambia, mm-hmm. o solamente sul balcone di casa o al parco cittadino, ma raccontateci anche se soffrite, se avete qualche malattia cutanea, per capire insieme al professor Monfrecola se il sole nel vostro caso può funzionare come una sorta di terapia. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto questo Deborah, sole io lo vedo tutte le mattine, praticamente mi sveglio con lui. E no, chi non anzi, lo vede? Faccio colazione e con lui. E chi non lo segue con piacere? Visto che parliamo di sole, vogliamo essere sicuri che il sole ci sia davvero in questo fine settimana. Noi chiediamo la conferma ad un esperto che il tempo ce lo racconta tutte le mattine in un paio di appuntamenti sulla 7 Omnibus. Diamo il buongiorno a Paolo Sottocorona. Dobbiamo chiamarla capitano? Buongiorno. Buongiorno. Ma sì, allora in un mare di colonnelli è vero. Io a questo punto sarei anche maggiore, però capitano francamente mi piace di più, perché piace... è una cosa che fa molto mare, marineria. Io questa è la mia grande passione, oltre al cielo è anche il mare, anche la terra, quindi benissimo, non si butta niente. E allora, capitano va bene se volete. Capitano Sottocorona. Tanto per capire che crema... No, sapere che io faccio colazione in pigiama con un capitano... Carlo sarà contento. Mi batte un po' il cuore. Carlo sarà contento, io quantomeno sono da sola. Allora, Sottocorona, tanto per capire che crema portarci, no? Arriva davvero il soleone questo weekend? Dobbiamo portarci una crema 50 per le prime incursioni sulle nostre spiagge, oppure sarà ancora un sole discreto e basterà una protezione un po' più contenuta? Sulle protezioni io ho una certa esperienza, perché tendo a bruciarmi soprattutto il naso, quindi io vado proprio a livello con il massimo schermo. Schermo fisico, così detto, alla fine, perché è l'unica cosa. Allora, sicuramente questo fine settimana sarà il primo con connotazioni estive, perché in realtà se ricordiamo anche verso inizio metà maggio abbiamo avuto delle giornate molto calde, si sono superati i 30 gradi, però era più effetto, adesso senza entrare troppo nel dettaglio, più effetto dell'aria, cioè arriva dell'aria calda, arriva lo scirocco e si va a 30 gradi. Questo avviene per esempio in Sicilia anche in pieno inverno, e non è che uno si brucia, perché il sole è quello di gennaio. Qui il sole è quello di giugno, e quindi ci e sarà se posso molto dire sole, è quello sarà... che permette di realizzare le migliori abbronzature, almeno secondo la mia esperienza. Questo poi lo chiederemo al professor Monfrecola. Perché ancora non è altissimo, però avremo sicuramente temperature decisamente estive, si andrà oltre i 30 gradi con una certa facilità, di sole ce ne sarà molto, quindi non è il sole di luglio che brucia più facilmente o quello di agosto. Però forse, ripeto, non è campo mio, ma un pochino di attenzione, quindi cioè non fatevi prendere la mano, no? Che dice che bello sto al mare finalmente dopo tutto l'inverno, e quella è uno si sdraia lì e ci si brucia anche a giugno. Infatti. Quindi, comunque un pochino di prudenza insomma ci vuole. Come sempre. Però l'estate è partita. Capitano, mio sì, capitano, quindi perché io ho sentito subito sarà una questa settimana e io sono già lì pronta che dico almeno no, una settimana, e poi che succede? Ormai ma è estate. Allora, bisogna tenere conto di una cosa, una specie di avviso ai naviganti che faccio sempre. Allora, ricordatevi sempre, quando sentite le previsioni, ovunque le sentiate, anche da me se dovessi impazzire un giorno, le previsioni oltre i 5 giorni perdono di validità, cioè diventano talmente vaghe che ai 6-7 giorni ancora, cioè si è perso già un po' il filo. Oltre i 7 giorni è pura fantasia, è fantascienza. Quindi siccome noi siamo scienza ma non fantascienza, come diceva uno slogan di un po' di tempo fa, quando sentite le previsioni per agosto, fra 15 giorni scoppierà l'estate, non è non ci credete. Non ci credete. Quindi quello che io vi posso assicurare è che questo fine settimana e, diciamo, mediamente i primi, almeno i primi 3 giorni della prossima, le temperature saranno molto alte, farà molto caldo, ci sarà attenzione perché sennò poi sembra che sbagliamo. Nel pomeriggio sulle zone alpine, le zone appenniniche ci sono degli annuvolamenti che possono dare qualche breve pioggia, soltanto nelle ore calde, quindi tenete conto di quello. Dopodiché non è che necessariamente scaduti questi 5 giorni viene brutto, piove e fa freddo, però non possiamo dire che cosa c'è, non lo possiamo dire con onestà, siccome l'onestà e la chiarezza, certo, e la trasparenza, diciamola così, vedi, anche nelle previsioni ci dovrebbero essere, perché sennò chiunque arriva e spara sciocchezze. Esatto. Sciocchezze. E poi dopo, come lei sa, le previsioni condizionano anche molto i flussi turistici. In passato avete avuto esperienze di grandi arrabbiature da parte di albergatori. Ce l'abbiamo ancora, solo che viene sempre un pochino frainteso, perché se qualcuno fa le previsioni per 15 giorni e poi dice erano sbagliate, prendetevela con chi l'ha fatta, non prendetevela con la categoria dei meteorologi. Gli errori ci sono, vanno messi in conto, certo. Questo vanno messi in conto, non è una scienza esatta. Però diciamo, ecco, che questo weekend, avendo detto che arrivano i 30 gradi di temperatura, saranno tutti contenti. Il tema è se voi aveste previsto. Guardi, capitano, per premiarla di essere stato con noi, io le faccio dire dal professor Monfrecola come riparare il suo naso dalla scottatura. Professor Monfrecola, si occupi del naso del nostro capitano. Perché lui vuole mettere lo schermo fisico, ma un peccato. Professore. Sì, dai, allora vi dico, sì, che lei ha accennato a uno dei due fattori di rischio, naturalmente, cioè quello ambientale, quanta luce abbiamo sulla pelle, quindi cominciamo da quello, però quello che dobbiamo fare i conti è sulla genetica del soggetto, cioè in altre parole il suo naso, capitano, è un naso di quelli che tende geneticamente a scottarsi o meno, e attenzione, quindi bisogna stare molto attenti a non confondere quello che è il fenotipo con il fototipo, cioè in altre parole non basta guardarsi allo specchio, dico vai, ho i capelli così, la pelle è chiara e allora sicuramente mi scotterò, no, attenzione, c'è un solo tipo di pelle sicuramente sensibile ed è quello dei soggetti rossi di capelli e con le felidi. Per gli altri invece dobbiamo fare un po' conto con la nostra esperienza, cioè come ci scottiamo, quanto ci scottiamo al sole, sempre, oppure quanto ci abbronziamo. Quindi il suo naso potrà essere protetto o meno in base un po' all'esperienza che lei ha avuto in passato, e a questo punto poi entra in gioco la fotoprotezione. E gli facciamo mettere uno stratino di crema? Ho capito, mi brucio anche quest'anno, io già ho capito. E va bene, e dai, e pazienza. Si ricordi, capitano, che però la pelle non dimentica, eh? Ma poi comunque, siccome in televisione tutti sono truccati, quindi voi mi vedrete sempre con un naso perfetto dal punto di vista del colore, per la forma lasciamo perdere, ma per il colore sarà perfetto, ma sarà tutto trucco, ricordate. Però insomma lei live è sbruciacchiato sul naso. grazie a Paolo Sottocorona per essere stato con noi, buon lavoro e buon weekend soprattutto anche a lei. Grazie anche a voi, arrivederci. Bastava mettersi la protezione solare. Cercavo di abbronzarmi. No, volevi l'abbronzatura selvaggia. Ma tu da che parte stai, Eddie? Come? Sto dalla tua parte, certo, ma calmati. Senti, ora ti metto un po' di aloe sulle spalle, ok? Dovrebbe darti un po' di sollievo. Avete sentito che cosa ci ha chiesto? Che cosa ha chiesto in realtà il capitano? Ma noi lo giriamo a voi, le stesse domande del professor Monfrecola. Quando state al sole vi scottate facilmente e quanto? Vi abbronzate costantemente e quanto? Insomma, non guardiamo solamente allo specchio, guardiamoci solamente allo specchio, ma cerchiamo di ricordare come la nostra pelle risponde a questi baci del sole. Ma chiamateci anche per raccontarci se avete un punto debole, fragile, qualcosa che vi preoccupa, le rughe ad esempio, se invece a preoccuparvi sono i brufoli, l'eccessiva secchezza, l'herpes che puntualmente ritorna, il naso che come al capitano Sottocorona si spelle. Professor Monfrecola, anticipavamo che la pelle non dimentica, ma noi ci dimentichiamo di lei e di proteggerla. Guardi, il vero problema, se mi permette di porre l'accento su una faccenda, è che se noi andiamo a chiedere alle persone, ma lei li usa i solari? La maggior parte dirà, certo, sempre. Il problema è che vengono usati male. Vengono usati male perché vengono messi poche volte, casomai, non vengono distribuiti bene e ci sono intere aree del corpo che non vengono assolutamente protette. Quindi c'è una falsa fotoprotezione. Naturalmente poi tutto questo andrà adeguato alla tipologia di pelle che possiamo avere, per cui un soggetto con pelle secca avrà bisogno di un prodotto più consistente e meglio idratante. Qui entriamo nel discorso del veicolo, quindi bisogna usare uno spray oppure una crema o qualcosa di più consistente. Questo dipenderà dalla tipologia di pelle. Un ragazzo con acne, per esempio, un ragazzo con pelle seborroica ha bisogno di qualcosa di molto leggero, altrimenti occlude e quindi dà fastidio, fa una certa untuosità, mentre una persona più avanti nel tempo potrebbe gradire un qualche cosa di meglio idratante. Quindi al di là del fattore di protezione cerchiamo di capire anche qual è il tipo di crema o di lozione che andiamo a mettere e che cosa deve contenere. E allora intanto, ecco qua, come al solito non avevo acceso il microfono, è proprio una grandissima giornalista radiofonica. No, stavo osservando mentre Nicoletta stava monitorando le telefonate in arrivo, io invece leggevo con piacere i nostri messaggi. Per esempio Bruna ci racconta che per il portafoglio e la sua pelle fa prevenzione un paio di mesi, una centrifuga di carota e un tantino di olio extravergine, e poi preferisce le spiagge libere, per cui la possiamo già subito adottare come ascoltatrice del giorno di Cuore Denari. Assolutamente. Dopodiché c'è un'altra ascoltatrice che invece ha un problema con una ecco qua, che adesso non trovo più il messaggio. Allora eccola qua, acne rosacea. Esattamente, era lei che mi è finita sotto. Chiara da Trento. Esattamente. Poi invece andiamo agli ascoltatori pronti con il telefono in mano all'800 24 00 24, ed è arrivata Angela d'Alessandria. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. E il mio problema è che da qualche anno mi sono venute delle macchie sulle braccia che quando prendo il sole si accentuano e poi durante l'inverno schiariscono, non tanto, poi io metto delle creme che mi ha dato il dermatologo, però si ripresenta sempre il problema tutti gli anni con l'esposizione delle braccia al sole. Metto protezioni 50, però insomma sì, non è come la prima volta, però comunque la macchia rispunta. Ma di che colore è questa macchia? Perché scura, i dermatologi hanno bisogno anche di individuare bene il colore. Molto scura, molto scura. È un eccesso di melanina. Professor Monfrecola, le macchie sono un tormento? Assolutamente, soprattutto per noi dermatologi. Anche per noi donne, perché sono sempre nei posti sbagliati. Allora, innanzitutto bisognerebbe chiedere, se non sono troppo indiscreto, l'età della signora. Perché 56. Perfetto, 56. Allora, è verosimile che lei stia avendo un problema, e perdoni il termine, ma noi lo chiamiamo foto invecchiamento. Esatto. Cioè dove il sole ha picchiato per diversi anni, perché purtroppo è un danno cronico, è lì che purtroppo crea queste macchie. Ora, su quelle macchie, signora, non è soltanto la fotoprotezione che può limitarle. Lei, mettendo il fotoprotettore, riesce ad attenuare l'entità, ma non può eliminarle. Per eliminarle c'è bisogno di trattamenti che si possono fare presso poi studi dermatologici, ma ripeto, la fotoprotezione è indubbiamente importante, ma ricordi, non la faccia soltanto per piacere durante il periodo in cui va al mare. La fotoprotezione alle braccia, al viso, il décolleté, le signore dovrebbero farla costantemente, perché anche durante i periodi primaverili o anche post estivi c'è comunque una forte irradianza solare che si prende quando camminiamo per strada. Perché il sole bacia belli, Deborah. Andiamo a Pisa. Guarda come sono abbronzata, infatti, in questi giorni c'è stato proprio si è appassionato. Esatto. Pisa, Massimo. Sì. Pisa da Massimo. Buongiorno. Massimo, salve. Buongiorno. Siamo un po' ubriache stamattina. Andrà al mare, ubriache Massimo? Di sole. Eh beh, sono un amante del mare. Ah, chi lo dice? E quindi? Il mio problema non è poi tanto riferito al mare quanto sempre. Io da aprile in poi, non ho grandissimi capelli, per non dire che non ne ho, in continuazione non faccio altro che bruciarmi, spellare, tanto che quando arrivo a giugno, come esco fuori, la bandana da pirata oppure mi brucio. E chissà com'è affascinante, Massimo, con la bandana sulla spiaggia farà strage. Senz'altro. La mia non la tolga mai, sempre, la Massimo. Mamma diceva sempre, bello col mio bimbo, non c'è nessuno, quindi... Allora, professor Monfrecola, basterebbe un cappellino o una bandana per Massimo? Che possiamo fare d'altro? Pone l'accento su un problema molto importante, perché le ripetute scottature del cuoio capelluto glabro, quindi privo di capelli, è sicuramente un indicatore, diciamo, nel futuro della possibilità di sviluppo di precancerosi cutanee che si chiamano cheratosi attiniche o anche di piccoli tumori facilmente poi risolvibili. Quindi Massimo fa molto molto bene a proteggersi con un indumento, in mancanza di questo potrebbe adoperare anche degli spray solari. Dico spray perché quelli sono molto più gradevoli sulla zona, diciamo, del cuoio capelluto, atti a proteggerlo dalla luce solare. Quindi fa bene, soprattutto se è giovane, a pensare ad ora a problemi che potrebbero svilupparsi nel suo futuro. Il professor Manfreco, lei ha anticipato un tema molto importante che io avevo un po' riassunto con la pelle non dimentica. Se avete avuto ripetute scottature, più scottature, vero professore? Ecco. Il rischio, ecco, insomma, cercate di farvi controllare, soprattutto anche se sulla vostra pelle compaio un numero eccessivo di nei, almeno superiore ai 50, vero professor Monfrecola? Sì, il problema è che il numero di nei aumenta soprattutto nella vita infantile, quindi scottature solari e aumento del numero di nei nella vita, diciamo nell'infanzia, possono essere un indicatore di maggiore rischio di sviluppo di qualche cosa che non va, quindi di neoplasie nella vita adulta. Naturalmente è un dato epidemiologico, bisogna soltanto badare a evitare gli eccessi, le ho detto con molta chiarezza all'inizio, il problema non è il sole, è l'eccesso a cui lo sottoponiamo la nostra pelle nel tempo, naturalmente. Continuiamo a parlare della nostra pelle, ma anche di sole, di spiagge, di ombrelloni, del costo di andare in spiaggia, anche dalla bottiglietta d'acqua. Esatto, è quello il problema, perché al limite per una bella giornata di tranquillità sulla spiaggia siamo anche disposti a spendere un po' per l'ombrellone con lo sdraio. Il tema è quando hai bisogno, hai sete e non te la sei portata da casa, arriva a Track che 3 euro vanno via, che è una bellezza per una piccola bottiglietta. Cuore e denari. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà. Posso subito leggere una mail fresca fresca arrivata adesso da Daniel? Sì. Perché abita e lavora a Francoforte, tutti coloro che ci ascoltano dall'estero secondo me vanno valorizzati quanto più possibile, perché sono veramente fedelissimi. Valorizziamoli. Certo, ci ascolta tutti i giorni. Il problema di Daniel, che ha una fidanzata, non è un problema, è una bella opportunità, ha una fidanzata di origine russa con la pelle molto chiara alle lentiggine. Ogni volta che si va in vacanza in Sardegna, racconta Daniel, il posto da dove viene lui si abbronza, ma le lentiggini diventano più visibili. Si può fare qualcosa? Ma sarà così carina? Professor Manfrecola, allora, la fidanzata non si può cambiare, No. Quindi potrebbe, quindi no, ecco. Allora, che si fa? E nemmeno le lentiggini, perché se la signorina fa le lentiggini è perché produce una serie di sostanze che noi chiamiamo feomelanine, cioè melanine rosse. Sono quei soggetti proprio fotosensibili, quindi purtroppo qui non è che possiamo evitarglielo in qualche maniera, possiamo limitarlo, ma possiamo limitarlo utilizzando costantemente prodotti che però comunque vanno a limitare anche in qualche maniera l'abbronzatura. Certamente i moderni filtri solari offrono però un vantaggio, vede, non solo filtrano, cioè non solo bloccano l'ultravioletto, lo limitano, ma contengono anche delle sostanze che noi chiamiamo citoprotettive, cioè che vanno a proteggere anche le cellule. Ecco, in questo caso l'utilizzo di un prodotto che contenga anche dei citoprotettori può senz'altro aiutare la signorina. Perché? Perché il futuro di una persona che ha lentiggini è un futuro che potrebbe essere un tantino a rischio. In questa maniera il rischio viene abbattuto notevolmente, quindi la signorina potrà godersi il sole, però deve avere una maggiore prudenza rispetto ad altri. Professore, lei ci ha dato l'indicazione di questi nuovi solari, troviamo tutto scritto sulla confezione? Sì, assolutamente, le attuali norme che vengono anche dall'Europa ci impongono alcune informazioni assolutamente sulla confezione, cioè il fattore di protezione, che non è soltanto quel numeretto, è diciamo una terminologia che adesso adoperiamo, che può essere bassa, media, alta, molto alta, quindi non ci appassioniamo troppo al numero. Quello che è importante è andare a vedere anche quanto quel filtro protegge anche dall'ultravioletto A, perché un filtro che protegga solo dal B non è un filtro assolutamente considerato sicuro. sicuro, c'è bisogno che sia anche bilanciato nei confronti dell'ultravioletto A, che contenga delle chiare informazioni sulle modalità d'uso, questo a uso dei consumatori naturalmente, che non sia sotto al 6 perché non è considerato filtro, non deve essere applicato una volta al giorno, questo è un altro claim che non va assolutamente dichiarato. L'ultima cosa, non esiste più la possibilità di scrivere total, il total non esiste, esiste soltanto una protezione che è progressiva, diciamo, in base al foto, alla capacità fotoprotettiva del filtro, quindi queste cose vanno tenute in considerazione assolutamente. Per la prima esposizione al sole, io sto pensando a questo weekend, non siamo abituati al sole, la pelle è ancora insomma bianca, grigetta, esatto, giallognola la milanese. Ecco. Professore, lo so che voi raccomandate di non esporsi nelle ore centrali della giornata, di esporsi adeguatamente protetti, eccetera, però ci dia proprio tre consigli per così accontentare, coniugare la nostra voglia di sole e di un po' di colore con naturalmente tutte le cautele per proteggere la nostra pelle. Allora, prima cosa, conosci la tua pelle, quindi sai già se nel passato ti sei scottata facilmente o meno. Allora, a questo punto qui, il fattore di protezione deve essere abbastanza elevato nei primissimi giorni, anche perché quando lo mettiamo sulla pelle, in quello che mettiamo sulla pelle ci abbassa di notevolmente quel numeretto ipotetico che c'è scritto lì. Quindi prima regola. Seconda regola, applicarlo più volte in maniera tale che tuffi in acqua o diciamo asciugamani portati a contatto della pelle non lo portino via. Terzo, anticipare tutto quanto con una buona alimentazione, per piacere, ricca di frutta e verdura, perché contengono sostanze antiossidanti. Per piacere, dice il dottore. E dopo, ecco, e poi ovviamente a questo si possono aggiungere gli antiossidanti per via sistemica, ma questo può essere un'aggiunta. Ultima e non ultima cosa, per piacere, evitate di fare delle lampade pensando in questa maniera di proteggervi meglio dai raggi solari. Allora, che io c'è? Non voglio dire, comunque, mamma mia, dottore, ne ho fatte un paio perché avevo questo bianco in faccia che non mi si poteva più guardare. Avrò fatto una cosa tanto grave? No, non grave. È che lei adesso ha una certa tinta, ma la tinta non la protegge dai raggi solari del sole naturale, quindi ha fatto casomai un qualche cosa che le dà un aspetto più gradevole dal suo punto di vista, ma non è certamente questo che la proteggerà. No, ma diciamo comunque... che non è che l'avevo fatte con quell'obiettivo, l'obiettivo era dare un po' di colore, ecco, dopodiché la protezione in spiaggia sarà assolutamente adeguata. Però non le ha più fatte perché io l'ho sgridata tantissimo. Ma dopo sono andata al mare, dopo ho preso quello naturale, ci mancava anche. Allora, abbiamo una domanda di Elena che è ricorrente, ma volevo darle spazio appena il professore aveva terminato con le indicazioni sui solari. Elena vuole sapere se lo schermo fisico ossido di titanio al 50% resiste di più come protezione e a che tipo e di grado protezione corrisponde. Professore. No, non è questo il problema, cioè non possiamo dire che perché c'è l'ossido di titanio sia più protettivo, perché dipende sempre dalle concentrazioni, quindi bisogna capire il produttore quanto ne ha messo nella confezione. Per quanto riguarda i filtri fisici, filtri chimici, è vero che in alcuni casi noi abbiamo avuto, ma molto molto molto raramente, delle reazioni di natura allergica a filtri di natura chimica, ma questo avviene abbastanza di rado. Il filtro deve essere ben bilanciato, quindi può contenere entrambi, sia filtri fisici sia filtri chimici. In base alla concentrazione di sostanze avremo il grado di fotoprotezione, quindi è legato non tanto alla presenza di questo o quella sostanza, ma quanto se ne mette in quel filtro, e poi questo deve poter garantire, appunto, quello dicevamo prima, che questo mescola di sostanze sia in grado di bloccare o di limitare tanto ultravioletto B tanto ultravioletto A. Ecco, qui è la sfida che si lancia al produttore: dammi un qualche cosa che bilanci B ed A e che sia gradevole da applicare. Andiamo a Stefano che ci chiama da Roma perché introduce un tema molto condiviso. Stefano, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione e volevo fare una domanda al professore. Io non riesco più a stare al sole, anche prendendolo nelle ore adeguate, con protezione alte, mi esce l'eritema in tutte le parti del corpo. Girando con lo scooter a Roma, anche 20 minuti scoprendo l'avambraccio, mi si riempie di bolle di eritema. Vorrei sapere che cosa... Cosa può essere e come fare? Come possiamo definirlo? Una specie di allergia al sole o invece di un'indigestione da sole? No, perché 20 minuti, ma queste pustoline, professore, si possono evitare? Dunque, quello che, a cui probabilmente, perché adesso naturalmente bisognerebbe vederle, ma quello a cui fa riferimento, noi lo definiamo non eritema solare, eritema solare è soltanto l'arrossamento, la chiamiamo meglio dermatite polimorfa solare, a meno che non ci si tratti non di tanto di puntini quanto di chiazze gonfie arrossate, in quel caso si tratterebbe di orticaria solare. Quindi questa situazione va prima vista naturalmente e poi diagnosticata. In entrambi i casi si fanno in dermatologia e presso centri attrezzati i cosiddetti fototest, cioè dei test che si fanno con delle apparecchiature che emettono luce e ci permettono di capire qual è la parte della luce solare in grado di provocare questa reazione. Una volta assodato che la reazione è provocata da quella lunghezza d'onda e di che cosa si tratti, se di dermatite polimorfa o di orticaria solare, poi si può provvedere a fare dei trattamenti che possono essere preventivi o anche curativi quando la manifestazione è già in atto, ma questo presuppone comunque un dermatologo o un centro dermatologico che diciamo sono in tutte le città, nei centri pubblici, sia universitari che ospedalieri, dove c'è la possibilità anche di fare questi test. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi abbiamo ancora un ascoltatore per il professor Monfrecola per dare dei consigli. Ma abbiamo anche le domande su quelle pilloline che si prendono per abbronzare, che si dicono che favoriscano, perché qua in ogni negozio anche che si va in cui si va in questo periodo, dottore, ce le propongono le erboristerie, per cui bisogna capire quando e come comprarle e come anche consumarle, insomma, se veramente fanno questo effetto. E poi parleremo anche di costi delle spiagge, a tra poco. Cuore e denari. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano. Perché? Battisti? Non lo so, adesso non ci arrivo un attimo. Era la canzone del sole. Vedi? Tan tan. Professor Monfrecola, abbiamo tante domande per lei ancora, ma indicazioni per chi questo weekend, e non solo questo weekend, ci auguriamo può esporsi al sole. Abbiamo Roberta dalla provincia di Varese. Roberta, buongiorno. Buongiorno. Anticipo già che c'è anche Stefania che ci scrive sulla mail di Cuore Denari, perché prima parlavate di colori delle macchie, in questo caso al suo compagno arrivano bianche, per cui faremo una puntatona col professor Monfrecola su macchie nei, professore, macchie di tutti i colori, nei, ne stanno arrivando tante telefonate, messaggi, nei, piani, il rilievo, un pochino lisci, meno lisci, professore, promesso. Intanto andiamo a Roberta dalla provincia di Varese. Buongiorno Roberta, benvenuta. Buongiorno, io avrei questa domanda da fare al professore. Intorno a gennaio febbraio mi sono comparsi sulle mani delle bolle e anche un sotto al piede, e sono andata dal medico, il medico mi dice che è dermatite da stress. Volevo sapere dal professore se fa bene sì o no prendere il sole. Grazie Roberta. La dermatite rientra in una di quelle malattie dermatologiche che si avvantaggiano dall'esposizione solare? Lei ha citato naturalmente anche la psoriasi? Allora, se stiamo parlando di dermatite da contatto, una dermatite da contatto allergico o irritante, questo adesso non lo sappiamo, dermatite è un termine generico che indica un'infiammazione, quindi posso ipotizzare che si tratti di una dermatite da contatto. E, è vero che, dato che anche lì si tratta di una situazione di ordine immunologico, alle volte oppure da irritazione e basta, ma certamente lo stress è soltanto un cofattore, non è il fattore determinante, chiariamolo subito. Ecco, in qualche caso la dermatite da contatto può risentire favorevolmente dell'esposizione al sole, ma ripeto, la terminologia usata è un po' vaga, quindi non mi permette di definirla meglio, ma diciamo che in linea di massima una dermatite da contatto allergica può giovarsi dei raggi solari. Professore, prima di lasciare spazio al tema dei denari, perché andare in spiaggia costa, ahimè. Anche se c'è chi ci racconta che spende molto più per le creme solari che per l'intera vacanza. Basta andare in una spiaggia libera, ecco, e quindi infatti già è subito fatto. Ma professore, per prevenire o curare l'eritema, noi l'abbiamo accennato, quel rossore o a volte anche quelle pustoline che compaiono i primi giorni dopo l'esposizione solare, c'è un modo? Allora sì, si può fare diverse cose. Prima di tutto, se stiamo parlando di dermatite polimorfa solare, attrezzarsi prima dell'estate con quello che lei faceva facendo prima. Non esistono le pillole abbronzanti, chiariamolo subito. Si tratta di pool di sostanze antiossidanti che possono essere assunte già da un mese prima delle prime esposizioni e poi continuare durante diciamo, il successivo periodo. Ancora si può applicare qualche crema protettiva che però permetta comunque una quota di ultravioletto di colpire la pelle, quindi con gradualità. C'è praticamente una desensibilizzazione che noi possiamo indurre alla pelle. La pelle pian piano si abitua ai raggi ultravioletti. Nei primissimi giorni, subito dopo l'esposizione, è possibile applicare una crema, una blanda crema cortisonica, solo per pochi giorni, per 3-4 giorni, le prime 3-4 esposizioni, subito dopo applicare una crema cortisonica. Questo fa diminuire la reattività, perché chi va incontro a dermatite polimorfa solare è un soggetto anch'esso predisposto geneticamente a questo, e lì c'è tutto un discorso molto complesso da fare. Però, fa diminuire la reattività, si può ottenere, certo, con esposizioni graduali e applicazione di una crema cortisonica immediatamente dopo. Debora, prima di salutarla, vuole leggerle un messaggio? Perché qua oggi abbiamo ufficialmente aperto lo sportello internazionale di Cuore Denari, per cui dopo Daniel, che ci ha scritto da Francoforte, il turno di Alistair, che ci scrive da Londra. Cara la mia Nicoletta. E ieri un'amica dalle Seychelles. Eccoti qua. Ah no, questa me l'ero persa ieri, sì, mi sono dimenticata. Allora, ascolto ogni giorno dall'Inghilterra, ci racconta il nostro amico, tramite internet per migliorare il mio italiano, e lo scrive perfettamente. C'è solo un piccolo errore che adesso gli segnalo, così impara. Posso chiedere se è vero che mangiando carote, una T, Alistair, carote ogni giorno per 2 mesi ti dà più protezione dal sole? Mia moglie dice che divento più giallo e basta. Ne ha messe 2 T perché ne mangia tante. Esatto, su, come ci diventa Bugs Bunny il nostro ascoltatore o che altro? Professore, le carote per proteggere la pelle o si diventa gialli? Allora, certo, la pelle può accumulare beta-carotene, che quindi può provocare ingiallimento al palmo delle mani e alla pianta dei piedi, dove lo strato corneo è piuttosto spesso. Ma vorrei dire al nostro ascoltatore che non bisogna pensare che madre natura possa aiutarci soltanto con una sostanza. Vede, la nostra alimentazione deve essere ricca di tante sostanze vegetali di provenienza appunto da verdure e da frutta. Perché? Perché non è vero che sia una sola sostanza quella protettiva, ma è l'insieme di tante sostanze, bioflavonoidi, licopene contenuto nei pomodori, tanto per dirne, vitamina C contenuta in frutta come agrumi o come kiwi, tanto per dirne, selenio, vitamina E, coenzima Q, sono tutte sostanze che sono contenute in tanti cibi. Quindi, per piacere, variare la dieta, certamente mangiare le carote non fa male, sì, ma pensare che le sole carote possano proteggere, anche perché che noia. Allora, al nostro amico diciamo: venga in Italia, c'è il sole, c'è la dieta mediterranea, che è la dieta speciale proprio, esatto, per il sole, senza che si intoppi di carote. Oh no, professor Monfrecola. Poi abbiamo anche il dermatologo che arriva da anche Napoli, che ha ribadito per diverse volte per piacere. Ecco, professor Monfrecola, per piacere ritorni, perché qua abbiamo da parlare di macchie, di herpes, di nei. Grazie, grazie, buona giornata. Va ancora al mare in roulotte a Pinarella di Cervia? Assolutamente garantito, ci vado da 20 anni ed è fuori discussione. Poi la prima telefonata, devo dire, che ho ricevuto da ministra è stata quella di Maria, la mia vicina di roulotte, che mi ha fatto la stessa domanda: ma un ministro ci va in roulotte? E gli ho detto: Maria, purtroppo per te ti tocca ancora, sono 20 anni che ci vediamo, ci rivediamo il 21esimo, perché lei prepara il gnocco fritto, abbiamo il lambrusco, il salame. E allora, se volessimo quest'anno disturbare il ministro del lavoro Poletti e chiedergli qualcosa del Jobs Act, sappiamo dove trovarlo, cara mia. Quindi facciamo una scorribanda a Pinarella di Cervia, te la senti in uno dei prossimi weekend, andiamo? Anche perché gnocco fritto, altro che carote, del nostro amico inglese. E altro che il Jobs Act. Tra l'altro, no, ne approfitto anche per ricordare che lunedì, in occasione di una guida speciale del Sole 24 Ore, che esce proprio appunto lunedì, parleremo di lavoro. Lo anticipo già agli ascoltatori interessati. Il ministro Poletti, da 20 anni, come sentivate, con il suo camper sceglie sempre la Riviera Romagnola. Lui ha il camper, ma chissà quanto costa lì attrezzarsi con tutto il necessario per godersi una giornata di mare, quindi ombrellone e almeno due lettini, direi, no? Le associazioni dei consumatori hanno già fatto i conti in tasca agli italiani, Nicoletta. Eh sì, Federconsumatori parla di un aumento medio del 3%. Se il costo dell'ombrellone resta invariato ad 11 euro, quello dello sdraio scende del 10%, quindi da 5 a 4 euro. 50, e il lettino aumenta del 3, ma sono previsti anche aumenti molto significativi per l'abbonamento stagionale, chi può permetterselo, certo, e per l'ingresso giornaliero, quelli del mordi e fuggi. E infatti, allora oggi cercheremo di capire se queste anticipazioni delle associazioni dei consumatori corrispondono a verità, e noi ne parliamo proprio con i gestori degli stabilimenti. Voi intanto raccontateci all'800 24 00 24 dove andrete, che budget avete messo a disposizione della vacanza al mare, stessa spiaggia e stesso mare, o quest'anno avete fatto un cambio di meta. Adriatico Tirreno, Salento, Cilento, Riviera Ligure o Lignano Sabbiadore, soprattutto stabilimento balneare di fiducia o spiaggia libera. Mano alla cornetta e portateci in spiaggia con voi. Parliamo di tutto ciò con Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari, ma anche presidente dell'Associazione Europea di Settore. Licordari, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Allora, ricordiamo per esempio come la vostra categoria fosse in agitazione un paio di anni fa per la questione sollevata dal governo sulle concessioni demaniali marittime, che vi costano salate in termini di canone. Poi la crisi ha aggiunto ulteriori preoccupazioni. Come ci descrive la situazione quest'anno, presidente? Ma guardi, non è tanto il discorso di costi salati relativamente al canone, è un discorso di costi complessivi. Ci sono delle sperequazioni nel nostro settore, perché ci sono alcuni di noi, i cosiddetti stabilimenti balneari pertinenziali. Ora, io capisco che per gli ascoltatori questi possono essere termini tecnici difficilmente comprensibili, ma sono gli stabilimenti balneari che hanno le strutture di proprietà dello Stato, a differenza della maggioranza che invece sono di proprietà del concessionario come strutture. Ecco, questi pagano dei canoni demaniali spropositati, quasi insostenibili direi oggigiorno con la crisi economica che stiamo vivendo, mentre invece ci sono altri che pagano dei canoni demaniali con cifre sicuramente inferiori a costoro, ma c'è un'incidenza dei costi complessivi, perché poi si sono aggiunte l'ICI. Ecco, faccio presente, certo, che ad esempio noi paghiamo l'ICI non essendo proprietari. Certo. Allora, Licordari, noi adesso dobbiamo andare in pausa, abbiamo il giornale radio, le chiedo qualche minuto di pazienza, di sentire le notizie con noi, poi torneremo a collegarci con lei e con altri ospiti nella seconda parte del programma. Intanto, naturalmente, anche spazio aperto agli ascoltatori, molti si stanno già mettendo in fila per intervenire. A tra poco. Cuore e denari. Ero soltanto la ragazza dell'ombrellone accanto. Ero soltanto la ragazza che passa con l'estate. No, no, no, dimentichiamoci le sere. Ed eccoci ritrovate in questa seconda parte di Cuore e denari. Continuiamo a parlare di ombrelloni, sdraio, cabine e di tutti gli altri costi della nostra abbronzatura, in particolar modo in termini di denari. 800 24 0024 per raccontarci se avete già deciso dove andrete e quanto pensate di spendere. Abbiamo con noi, sì, solamente per, certo, ricordare che c'è Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari, ancora per pochi minuti perché poi deve scappare. Diteci intanto, lo state già facendo, com'è la vostra spiaggia ideale? Deserta, vivace, piena di gente, di musica? Oppure cercate la spiaggia libera, quella un po' nascosta, appartate? 349-238-6666, continuate a farlo, oppure come sempre potete chiamarci. Bruna ci scrive che il Salento è la sua meta preferita, e va a trovare i parenti e suggerisce settembre come mese più bello. Anche per la Sicilia, insomma, per le zone del sud Italia sicuramente la vacanza settembrina è quella ideale. Spiaggia libera a pagamento, un dilemma tutto italiano, ci scrive un ascoltatore all'estero. Non ho mai visto spiaggia a pagamento, comprese quelle attrezzate di docce e bagni. Ecco, Licordari, visto che lei è presidente anche dell'Associazione Europea, come rispondiamo a queste contestazioni degli ascoltatori? Più che contestazioni sono delle considerazioni che lasciano secondo me il tempo che trovano, perché voglio dire, in Italia abbiamo un sistema di balneazione che tra l'altro ci è invidiato dagli altri paesi, tant'è vero che il nostro modello viene esportato all'estero, in Francia, in Spagna, in Portogallo, stanno veramente copiando il nostro sistema balneare. In che cosa ci copiano, per esempio? Eh beh, nel fornire i servizi che da noi sono nati nel 1781. La nostra balneazione deriva a questa storia, ha origini antichissime. Noi abbiamo iniziato con i nostri avi a mettere dei piccoli servizi sulle spiagge, degli spogliatoi che prima erano dei tendoni, eccetera, eccetera, per un'evoluzione che ha portato ad oggi a quella che è la qualità e la capacità di dare servizi sui litorali. In Francia lo stanno facendo, in Portogallo lo stanno facendo, in Spagna anche. Ecco, perciò quando si dice che all'estero non c'è niente di tutto questo, è vero, ma non ci sono neanche i servizi che noi offriamo. È difficile, cioè se noi andiamo sulla spiaggia di Barcellona, durante l'inverno vediamo tutto deserto, durante l'estate, da marzo-aprile, allestiscono i cosiddetti ciringuito, che sono dei piccoli chioschi, sì, ma poi finisce tutto lì, cioè danno poi a richiesta un ombrellone e una sedia a sdraio o un lettino per chi lo vuole, glielo posizionano sulla spiaggia, ma non ci sono tutti gli accessori che noi siamo abituati a trovare sulle spiagge italiane. Sai che cosa mi sta dicendo Nicoletta? Che voleva dirlo di nascosto, ma adesso io subito lo... No, nel senso che comunque è una cosa, no, che a te piace. A me piace. Ecco. A me piace. Allora, ringrazio dell'apprezzamento, perché credo che sia il sentimento di tutti quelli che frequentano i nostri litorali. Nessuno è obbligato a venire negli stabilimenti balneari. Se uno entra nello stabilimento balneare, sa che deve pagare, certo, determinati servizi, ma vuole una certa qualità. Ecco, allora, tra l'altro, a proposito di pagare certi servizi, ricordare, andiamo un po' a qualche preventivo di spesa. Certo. Quest'anno, sulle anticipazioni, previsioni fatte dalle associazioni dei consumatori, appunto sui costi che praticherete, che cosa ci dite? Ma guardi, io le posso dire che innanzitutto è difficile quantificare delle cifre, perché l'Italia è variegata, c'è una disomogeneità e ci sono località e località. Non si può certo paragonare la tariffa che incontriamo a Capri piuttosto che a Taormina o a Forte dei Marmi con quelle di località minori con servizi e situazioni differenti, sia proprio dei servizi sia che nel territorio. Perciò possiamo spaziare in Italia dai costi del lettino, che si possono trovare dai 3-4 euro al giorno in talune località, ai 20, 25, 30 euro in altre località. Ecco. Allora diventa difficile poter dire il costo dell'ombrellone quest'anno sarà così. Quello che io posso dire, perché capisco che l'argomento è caldo, è molto sentito e molto importante, no? Quello che posso dire è che come associazione di categoria, noi siamo Assobalneari Italia, che aderisce al sistema di Federturismo Confindustria. Sì. Ecco, noi abbiamo dato come indicazione ai nostri associati, ma non quest'anno, sono già 3 anni che lo facciamo, l'indicazione di non effettuare nessun tipo di aumento, ma neanche gli adeguamenti, perché siamo i primi che ci rendiamo conto che c'è una crisi che si respira, che le famiglie hanno difficoltà a arrivare a fine mese. E non voglio parlare delle località d'élite, parlo di tutte le località che, certo, sono la maggioranza nel nostro paese. E allora io chiedo conferma, ricordare ai nostri ascoltatori se già si sono dati un'occhiata attorno, sono andati allo stabilimento di fiducia o ne hanno scelto un altro quest'anno. Raccontateci un po' che preventivo di spesa le hanno fatto, perché anche in questo caso, come per tutti gli altri esercizi commerciali o attività appunto turistiche come queste, naturalmente è bene che si faccia fare ogni turista un preventivo, naturalmente, per capire quanto spenderà. Io saluto appunto Licordari, perché ci aveva dato appunto questo limite di tempo, per cui grazie, buon lavoro per quest'estate, e saluto Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA Balneatori. Buongiorno Tomei, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Abbiamo un altro appoggio, anche fra un po' ci raggiungerà anche Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, che ha elaborato quelle stime di spesa che abbiamo indicato prima. Tomei, io le chiedo subito un preventivo. Due spiagge in due zone diverse, ci dica un po' che tipo di prezzi troveremo quest'anno. Ci faccia un preventivo per una settimana a giugno ed una ad agosto, una famiglia di 4 persone, 2 fotografie, e naturalmente ci dica in questo modo cosa prevede come prezzi medi per quest'anno la vostra organizzazione. Io le posso dire, in Liguria, Sestri Levante, giugno per un mese, siamo sui 300 euro. come prezzo minimo e un massimo di 5,80. 5,80 naturalmente pensiamo all'ombrellone proprio in prossimità della battigia. Agosto, sì, sì. E agosto stiamo sui 5,30, un massimo di 8,900. Però diciamo sono servizi con tavolino, poltroncina, oltre alle sdraio. Proprio come dire una coccola. Però un ombrellone e due sdraio per una famiglia, i bambini non contano? Per una famiglia di una famiglia, no, ok, meno male, perché mi sembrano non ci si pongono limiti di questo tipo. C'è un rapporto fiduciario con le famiglie che è ultra decennale, storico, diciamo è la forza vera di queste attività, questo rapporto con un turismo familiare che poi si va a innestare bene con il turismo costiero ricettivo che viene messo in campo dalle strutture. Certo. Allora io Tomei, le chiedo un attimo di pazienza perché chiederei a Marco e Laura se possiamo riproporre la telefonata con lei, perché dal punto di vista qualitativo non è buona. Allora nel frattempo salutiamo Rosario Trefiletti. Buongiorno. Lei dove mi va in spiaggia durante l'estate, Trefiletti? Guardi, io vado nel profondo sud, vado in Sicilia, anche perché sono vengo da lì, insomma, e quindi vado in una spiaggia vicino Taormina, non Taormina perché io che sono un povero pensionato sarebbe proibitivo, poi insomma una spiaggia decente che a Fiume Freddo, diciamola tutti. Eccola qua. Ecco. Quindi abbiamo anche individuato la località allora, oltre che del ministro, anche di Trefiletti. No, senta un po', ma lei quando arriva in spiaggia si mette a battagliare come siamo abituati a vederla in televisione, non solo, appunto quando viene invitata per discutere tutte le battaglie delle associazioni dei consumatori, oppure lì si mette un po' più defilato e sta solo in osservazione un po' del comportamento dei gestori dello stabilimento? Fa un po' anche lei il VIP in vacanza, insomma. No, per la verità io purtroppo, ma lo dico purtroppo in termini anche positivi, insomma io sono abbastanza conosciuto e quindi non potrei neanche stare in incognito. No, ma per la verità io sono anche contento, certo, non è che certo. Io adesso sto dicendo che qualcuno mette in pericolo la mia privacy. No, io sono felicissimo che mettano in pericolo la mia privacy, quindi sì, battaglio se c'è qualcosa che non va, certo. Per la verità mi sembra che invece le cose laddove io frequento, insomma, vadano abbastanza bene e prezzi contenuti. Sono sotto la media, ecco. Diciamo così. E allora voi come avete fatto a rilevare gli aumenti di prezzo che avete denunciato negli ultimi giorni, Presidente? Perché prima anche il responsabile di Assobalneari ci ha detto che hanno dato indicazione agli associati di non fare aumenti neanche proporzionati appunto al costo della vita, che comunque è minimo in Italia perché l'inflazione è molto bassa. Per cui dove avete individuato queste variazioni in positivo dei prezzi? Sì. Innanzitutto noi abbiamo un campione che già molti anni, e naturalmente abbiamo sempre quello, dislocato al nord, al centro, al sud, in alcune località balneari, sia quelle economiche e sia quelle di particolare grido, diciamo così. Ecco, e naturalmente la verifica la facciamo in linea, cioè online, in internet. Abbiamo appunto questo campione, lo verifichiamo ogni anno. E guardi, le dico subito che è pur vero che non esiste una variazione molto forte per quanto riguarda il singolo servizio, voglio dire l'ombrellone ad esempio, niente, non abbiamo verificato nessuna variazione. Vero, invariato a 11. Ecco, invariato, diciamo anche insomma, la l'ombrellone tiene. La sdraio addirittura, che ormai è diventata un'arma impropria, io perlomeno quando la utilizzavo mi facevo male. Ecco, la sdraio non la sa usare. Sulle facciamo un corso accelerato. Tre filetti, esatto, pure sì. I suoi difetti ce l'avrà, ecco. Perché certo che c'ho i difetti. Ma minimi, perché solo questa essendo della sdraio, uomo, minimi. Minimi. Non ne ho. E quindi allora, ombrellone invariato. Invece abbiamo registrato degli aumenti che non ci piacciono proprio per nulla sugli abbonamenti. Insomma, sull'abbonamento sia quello giornaliero, che è 11 punti percentuali in più, e addirittura l'abbonamento stagionale abbiamo registrato, sempre dai dati che verifichiamo dagli stessi stabilimenti, e non è che ce li inventiamo noi, un 18% in più. Si passa da 1030 euro a 1220 euro per un abbonamento stagionale, che è comprendente di un lettino e una sdraio e l'ombrello. abbiamo ripescato. Sì. Ecco, sì. Cristiano Tomei, coordinatore nazionale del Balenatori del CNA, e che è tornato in linea con noi, e immagino che abbia sentito anche i commenti del nostro Trefiletti. Insomma, in qualche maniera ci comportano, perché gli aumenti non ci sono stati, e poi stiamo noi cercando di mantenere, di calmierare il più possibile, perché ci si rende conto della situazione di crisi. Teniamo conto dei tre mari, Tirreno, Adriatico e Ionio, per cercare di avere un'offerta integrata. Peraltro lanceremo quest'anno un test sulle spiagge abruzzesi che si chiama Open Voucher dell'Ombrellone. Ossia, prenderemo per poter vedere se è possibile di esportare questo test e questo sistema in tutta Italia. E quindi testerete gli avventori della spiaggia? In che modo? No, faremo questo tipo di offerta, di proposta, ossia 10 spiagge in 10 località diverse dell'Abruzzo, per cui non è in qualunque spiaggia arrivi la famiglia, con lo stesso prezzo della settimana può recarsi ogni giorno diverso. In uno stabilimento. Un po' come si fa in palestra, un abbonamento open, perfetto. Ma senta, no, magari sentiamo gli ascoltatori. Vuoi che legga un po' di messaggi? Ad esempio, Claudio da Genova ci dice che a Naxos in Grecia 6 euro lettino e ombrellone. Quello che ti raccontavo anch'io l'anno scorso, sono stata a Creta. E servizio gratuito, consumazioni in spiaggia da parte dei bar. Sestri Levante, 3 euro al giorno a luglio del 2013. Altri ascoltatori ci dicono, come un ascoltatore che non si firma, ma è di Rimini, residente, rispetto allo scorso anno, ombrellone, 2 lettini più 30 euro rispetto allo scorso anno, stagionale. Insomma, spiaggia che vai, prezzo che trovi. Esattamente. Allora sentiamo un paio di ascoltatori. Andiamo a Biella da Maurizio, che in realtà non denuncia una situazione di variazione sui prezzi quest'anno, ma gli è capitata una disavventura, vorrebbe capire come gestirla. Maurizio, buongiorno. Rapidissimo, grazie. Sì, sì, buongiorno signore. Se siete belle come siete simpatiche, Miss Italia arriva a terra. Molto di più, guardi Maurizio, mi spiace dirlo. Ci dica, grazie. Io di solito vado a Miramare tutti gli anni, e con la crisi andavo 15 giorni, solo per una settimana io con due donne, mia cognata e mia moglie. E succede questo, volevo sapere se il regolamento, io vado giù una settimana, il tempo è incerto, gli dico, ma scusate, io mi pago già tutta la settimana, come mi è già successo. È capitato 4 giorni di pioggia, perché devo pagare tutta la settimana? Non è mica colpa dello stabilimento, Maurizio. Lo so. Magari poteva, non lo so se esistono forme, Trefiletti, assicurative contro il maltempo, ma magari l'industria la facciamo attrezzare anche in questo modo. Però anch'io sono andata una volta dall'altra parte del mondo, in Nuova Caledonia, una settimana, 4 giorni di pioggia, ma non è che me la posso prendere con un tour operator con cui ho... No, non ci risulta e non vorremmo che diventasse un nuovo business per le assicurazioni. Esatto. Già a noi non piacciono nuovi business, quindi per carità, è purtroppo il malcapitato cliente, è certo. Stato malcapitato. Detto questo, poi magari con il gestore dello stabilimento in amicizia si può chiedere, certo. Che ne so, posso dire una cosa a Taddei? Certo. Ecco, la cosa importante è questa. Qualche tempo, che dopo tutte le denunce che avete fatto voi dei mass media, noi dei consumatori o che altro, ci sono meno contenziosi per il passaggio negli stabilimenti da parte dei cittadini che vogliono raggiungere, esatto, il pagamento dell'ingresso in spiaggia, ecco, che ci è stato segnalato, però sì. Ancora sussistono problemi. Taddei dovrebbe fare Tomei, sì. Tomei, è lo stesso, sì. Chiedo scusa, l'avevo capito male al telefono. Quindi Tomei dovrebbe, a mio avviso, cioè noi chiediamo questo, faccio un appello di nuovo alla correttezza, per cui i cittadini che vogliono raggiungere una spiaggia libera o il mare per farsi una nuotata, naturalmente poi non fermandosi nello stabilimento, questo è evidente, che non paghino l'ingresso, perché la legge recita così. Ecco, già succede che sì, questa cosa viene abbastanza bene rispettata, però un'ulteriore si può fare di più, allora. Sì, bravissima. Carla, dalla provincia di Bologna, che ci racconta? Io volevo proprio parlare di questa cosa del passaggio negli stabilimenti, era proprio questa cosa qui che volevo... Mamma mia Carla, come siamo stati fortunati, ci dica. Niente, proprio perché in Romagna tu puoi attraversare, entrare negli stabilimenti senza problemi, arrivare in spiaggia senza problemi assolutamente. Anche nelle Marche, glielo dico. Sì, ma infatti su Adriatico, bene o male, nella parte nord è così. Vai in Versiglia, in Toscana, assolutamente, e se chiami i vigili, loro non intervengono. No. Tomei. Sono in virgolette complici di questa cosa. E non è bello, perché il vigile dovrebbe far rispettare la legge. Tomei, allora questa faccenda la possiamo sistemare o no una volta per tutte? Sistemando, perché lo dice anche Trefiletti, da diverso tempo ormai si sta recuperando, ma ciò che già c'era di fondo, questo bel rapporto tra l'utente della balneazione e il titolare della struttura balneare, è un rapporto imprescindibile e ci deve essere correttezza, trasparenza e soprattutto fiducia. Loro, i titolari degli stabilimenti balneari, sono volti a dare tutta la massima, come dire, il massimo servizio, ma anche agli utenti delle spiagge libere, perché il demanio fondamentalmente è pubblico e questo noi non lo disconosciamo. Bisogna creare delle regole in modo tale che ci sia la possibilità per chi investe e quindi propone i servizi di balneazione attrezzata che si integrino con quelli delle spiagge. E quindi ci dica, insomma, per chi capita, vorrebbe entrare in una spiaggia e si trova a dover versare questo obolo, non so come poterlo definire, chiaramente o si torna indietro e si sceglie di non andare in quella spiaggia, oppure come si può contestare questa richiesta? Guardi, c'è già una norma sulla finanziaria 2007 che non prevede questa possibilità, a meno che queste spiagge non si trovino su terreno non demaniale ma privato. Credo che siano casi ormai in Italia abbastanza circoscritti, perché forse, probabilmente, non si trovano sul demanio. Ma siccome bisogna anche creare una norma omogenea che riguardi tutta la costa nazionale, quindi i tre mari, come dicevo prima, bisogna ancora lavorare un po' in tal senso, però certo. Molto, molto, lo dice anche Trefiletti, è stato sin qui fatto. Benissimo. Allora, noi dobbiamo salutarci, certamente. Raccomandare anche, speriamo che comunque le spiagge libere restino, esatto. A disposizione di chi vuole fare questa scelta. E portare le spiagge agli animali, ricordiamo. Teniamole pulite le nostre spiagge. Esatto, se volete portare l'animale abbiate rispetto ovviamente di chi vi sta attorno, e noi rispetteremo ovviamente tutte le persone che vogliono portarsi la compagnia pelosa. Ringraziamo Cristiano Tomei e Rosario Trefiletti, tutti gli ascoltatori che questo weekend si godranno, speriamo, no? Due giornate di solleone. Grazie Nicoletta, noi ci ritroviamo qua lunedì. Buon weekend per parlare di lavoro.